Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Le 21:03 minuti, una buona serata da Anna Rita D'Ambrosio, un bacio come sempre a Roberta Giordano, evidentemente ancora fermata dalla febbre, ma che ritroverete ovviamente presto con voi. Le notizie della giornata di oggi sono tante, a partire dalla politica, dal bagno di folla per Berlusconi oggi davanti a Palazzo Grazioli, dopo la soluzione ieri sul caso Ruby. E poi c'è la Lega che si spacca, parla Tosi, un mio rientro improbabile, dice Salvini, voleva il controllo dittatoriale del partito. Poi ha parlato Draghi a pochi giorni dal quantitative easing, segni di inversione dopo la frenata del PIL e di mercati hanno chiuso in forte rialzo. L'ISIS arretra, le truppe irachene entrano a Tikrit, battaglia finale per la città simbolo. E poi parleremo oggi diffusamente anche di minori di adozioni per la precisione, saltano quelle ai single, ritirato l'emendamento della senatrice PD Puglisi. Allora possiamo cominciare questa serata con Effetto Notte. Ringrazio in regia innanzitutto Carmelo Lauricella, in redazione Cristian Goldoni e Mariella Roberto. Apriamo con cosa? Con la politica, come detto, con questo centrodestra in grande fermento. Torna Berlusconi dopo la conferma della soluzione al processo Ruby ottenuta ieri in Cassazione, questo mentre tra Salvini e Tosi la frattura però si allarga. Partiamo da Berlusconi. Un ringraziamento ai giudici coraggiosi che lo hanno assolto resistendo alle pressioni mediatiche e una promessa, quella di tornare di nuovo in campo per costruire un'Italia migliore. Canta vittoria e prova a guardare avanti Silvio Berlusconi all'indomani della pronuncia della Cassazione sul processo Ruby. Rimane il rammarico per una vicenda che ha fatto innumerevoli danni non solo a me ma a tutti gli italiani, aggiunge però in una nota l'ex cavaliere che è rientrato a Palazzo Grazioli nel pomeriggio, ha trovato ad attendere un gruppo di sostenitori in festa e una pattuglia di parlamentari forzisti. La sentenza di ieri ha sanato tutte le fratture, anche nel partito. Uniti vinceremo perché i moderati sono sempre la maggioranza nel paese, avrebbe detto loro Berlusconi. Messe da parte le divisioni interne, Forza Italia, almeno per oggi, sembra ricompattarsi attorno al suo leader. Fra gli azzurri ora sono in molti a sperare in un impegno in prima persona di Berlusconi nella campagna elettorale per le regionali e fra di loro c'è anche chi chiede di rivedere la legge Severino per restituirgli piena agibilità politica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dunque, Berlusconi a dominare la pagina politica con il suo ritorno, ma come detto c'è in primo piano anche la Lega, Tosi e Salvini, con un'aspra polemica a distanza anche nella giornata di oggi. Allora partiamo dalle parole di Tosi in conferenza stampa e poi le reazioni. Più ci penso, più mi convinco che in realtà a Matteo Salvini andasse bene arrivare a questa conclusione e alla fine c'è arrivato perché le motivazioni: uno, è stata commissariata la Liga Veneta, cosa mai accaduta in 20 anni abbondanti di storia di Lega Nord, in vista delle elezioni regionali della Lega, praticamente in piena fase di predisposizione delle liste, calpestando brutalmente l'autonomia della Liga Veneta. Liga Veneta che ricordiamo in modo compatto, con una maggioranza larghissima, ha ribadito a Via Bellerio che le decisioni sulle liste e sulle alleanze si sarebbero prese in Veneto, così come è sempre stato fatto, così come è accaduto in Lombardia, in Emilia Romagna, in Piemonte e in Veneto per più di 20 anni. E quindi per questo dico è una cosa cercata non da noi ma evidentemente da Milano per creare questa situazione. Sceglie il basso profilo il leader della Lega dopo aver messo fuori dal carroccio il sindaco di Verona. Salvini rimanda di fatto al comunicato di ieri sera, ricorda i tentativi fatti senza esito per arrivare ad una mediazione, da cui l'unica strada percorribile, la decadenza di Tosi dalla Lega. Quanto alle accuse di essere sleale e di essere un dittatore, Salvini replica così a Radio Padania. Di solito mi danno del dittatore, dell'estremista, dello sleale, dello scorretto, insomma, Alfano e Renzi. Se si aggiunge qualcuno è in buona compagnia, non mi tocca, e cerco di meritarmi lo stipendio non per rispondere a insulto con insulto, ma per dare risposte concrete ai cittadini. La vicenda Tosi è ufficialmente chiusa. Giriamo pagina, commenta Zaia. Il mio Veneto, aggiunge l'attuale governatore, non ha bisogno di beghe, ma ha bisogno di una squadra che risolva i problemi. Quindi la campagna elettorale, noi vinceremo, a noi i polsi non tremano. Infine Maroni, mi spiace, dice, perché sono amico di Tosi, ma siamo in democrazia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E domani c'è un appuntamento politico importante, il Consiglio dei Ministri che sceglierà la via del DDL per la riforma della scuola e dovrebbe confermare gli scatti di anzianità, ma dando ampio spazio al merito dei docenti. E quanto si apprende da fonti di governo in vista appunto di questo importante Consiglio dei Ministri. Tre i punti chiave della riforma della scuola: mai più classi pollaio troppo numerose, scuole aperte anche il pomeriggio e poi la cosiddetta carta del prof, per rafforzare la dignità sociale del ruolo del docente. E noi parliamo di economia, segnali di inversione, ritorno alla crescita. Banca Centrale Europea e Ministero dell'Economia hanno lanciato oggi segnali di ottimismo. Gli acquisti di titoli da parte della BCE non rappresentano qualcosa di nuovo e gli ultimi indicatori positivi mostrano che la frenata della crescita nell'Eurozona ha iniziato a invertire la rotta. Da Francoforte il presidente della BCE, Mario Draghi, lancia messaggi rassicuranti pochi giorni dopo il varo ufficiale del quantitative easing. Le misure della Banca Centrale Europea, insiste Draghi, possono proteggere i paesi dell'Eurozona dal contagio. Poi tocca un altro tema sensibile all'interno del mandato di Francoforte. Siamo in grado di stabilizzare l'inflazione e ce la faremo. Le parole del presidente della BCE, oltre a rivelarsi un toccasana nell'immediato per i mercati finanziari, sono state indirettamente commentate dal ministro dell'economia Padoan, che in audizione al Senato ha affermato: il quantitative easing è un meccanismo che promette di essere estremamente efficace e già lo si vede sui mercati. Padoan stima in 700 miliardi gli investimenti necessari per ritornare ai livelli pre-crisi in Europa, il doppio di quelli previsti dal piano Juncker. L'Europa, ha poi aggiunto, vuole che l'Italia non allenti lo sforzo sulle riforme implementandole. La combinazione di piano Juncker, acquisto titoli BCE e riforme strutturali, secondo Padoan, dovrebbe garantire la svolta. Mi aspetto che non solo ci sia più stimolo alla crescita, ma questa crescita sia più robusta. La crescita non solo aumenterà, ma sarà più ricca di lavoro di quanto sarebbe stato altrimenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le parole di Draghi hanno fatto accelerare i listini e influito sul mercato valutario. A fronte delle prospettive di stretta monetaria negli Stati Uniti, il dollaro è salito contro l'euro. La divisa unica è oramai vicina alla parità con il biglietto verde. Bene oggi anche lo spread tra BTP e Bund, che ha archiviato la seduta in calo a 91,5 punti base. Via libera dell'Aula della Camera l'emendamento delle commissioni che riscrive le norme sulla portabilità dei conti correnti senza spese, precisando che in caso di inadempienza scatteranno multe da 5.000 a 64.000 euro per dirigenti e dipendenti delle banche. L'altra notizia che ha dominato oggi, e sta al Senato però non alla Camera, è stato il tema delle adozioni. In serata è arrivato l'ok del Senato appunto al disegno di legge, ma è saltata l'ipotesi di estenderle ai single. L'Aula del Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge di iniziativa parlamentare di modifica della legge 4 maggio 1983 numero 184 in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie. Favorevoli 197, nessun contrario, nessun astenuto. Ma cosa c'è dietro ai numeri? Qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia affidataria deve essere considerata in via preferenziale ai fini dell'adozione. Ma se l'affido dei minori è aperto anche alle persone single, l'adozione non potrà riguardarli. L'emendamento è stato ritirato dalla stessa firmataria della legge, Francesca Puglisi, del PD. L'obiettivo dell'emendamento era parificare i diritti dei bambini che vanno in affido familiare ad un singolo a quelli dei bambini che vanno in affido familiare ad una famiglia regolarmente sposata. Ho ritirato quell'emendamento perché ho capito in aula che purtroppo aleggiava sull'aula lo spettro di un altro provvedimento che non ha assolutamente a che fare con questo e che riguarda le unioni civili e la stepchild adoption per le coppie omosessuali. La proposta passa ora in seconda lettura all'esame della Camera. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parleremo diffusamente di questo tema delle adozioni più tardi. Adesso ci trasferiamo a Madrid, dove gli esperti hanno annunciato sarebbero state ritrovate le ossa di Cervantes. A quasi 400 anni dalla sua scomparsa, sarebbero stati trovati i resti di Miguel de Cervantes, creatore del capolavoro letterario di ironia e satira Don Chisciotte. Cervantes morì la notte tra il 22 e il 23 aprile del 1616 e fu sepolto a Madrid nel convento delle Trinitarie Scalze, a cui era devoto. Il luogo esatto della sepoltura, però, nel corso dei secoli, è stato dimenticato e quando il convento, nel 1921, è diventato patrimonio nazionale, gli interventi archeologici sono stati sempre ostacolati. Lo scorso marzo, tuttavia, il Comune di Madrid ha finanziato nuove ricerche e gli studiosi hanno individuato una cripta con una bara che presentava le iniziali dello scrittore. I resti trovati all'interno, che i ricercatori ricondurrebbero a Cervantes e a sua moglie, sono in pessimo stato e al momento il Comune di Madrid non garantisce la certezza assoluta. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio perché anche stasera c'è la Champions dopo i gol e le emozioni di ieri. Altre due le partite in corso di svolgimento. Ci aggiorna in diretta il nostro Dario Ricci. Dario. Sì, buonasera Anna Rita. Allora, siamo intorno al 28esimo di gioco sia a Londra che a Monaco di Baviera. Londra, Chelsea e Paris Saint-Germain sono ancora sullo 0-0. Ricordiamo che si parte dall'1-1 dell'andata a Parigi, quindi c'è Chelsea che, stando così le cose, sarebbe qualificato ai quarti, ma gara ovviamente ancora molto lunga. Da notare che entrambe le formazioni hanno il lutto al braccio per commemorare le vittime del grave incidente dello scontro di elicotteri che ben conoscete, avvenuto ieri notte in Argentina, in cui sono scomparsi nomi importanti e prestigiosi dello sport francese. Per quanto riguarda la gara di Monaco di Baviera, il Bayern Monaco è già in vantaggio sullo Shakhtar Donetsk, decide finora il calcio di rigore di Thomas Müller al quarto minuto di gioco. Shakhtar che nell'occasione ha visto espulso anche l'autore del fallo decisivo, Kuscher, fallo su Götze lanciato verso la porta degli ucraini, quindi espulso Kuscher, Bayern Monaco in vantaggio di un gol e di un uomo. Grazie al nostro Dario Ricci che evidentemente tornerà ad aggiornarci nel corso di Effetto Notte sulle due gare che sono in corso di svolgimento. Noi adesso ci fermiamo un po' e ci aggiorniamo su strade e autostrade. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 21 e 16 minuti, eccoci ritornati per commentare le notizie del giorno. A partire dalla politica, la Lega che si spacca, Tosi che accusa Salvini di essere un dittatore, Zaia sicuro in Veneto vinceremo, non ci tremano i polsi, queste le sue parole dopo la conferenza stampa oggi di Tosi. E poi c'è il ritorno di Berlusconi che torna e rilancia, torno in campo e uniti vinciamo, questa la sua opinione. Anche la pagina economica con le parole di Draghi, il quantitative easing funziona bene, ha detto oggi, euro intanto verso la parità con il dollaro. E poi si è parlato molto oggi anche di minori e di adozioni perché sono saltate quelle ai single, è stato ritirato l'emendamento alla senatrice PD Puglisi. Allora parliamo, soffermiamoci sulla politica, una giornata ricca, dicevamo, quella di oggi tra la Lega ed il ritorno di Berlusconi. Lo ringraziamo e parliamo diffusamente di questa pagina politica stasera con l'editorialista del Sole 24 Ore Guido Gentili. Ciao Guido. Ciao, buonasera. Allora, partiamo dalla Lega, una Lega, Guido, totalmente diversa. Abbiamo sentito anche il Salvini sceso a Roma, un Salvini particolarmente arrabbiato. Ti aspettavi questa polemica così dura con Tosi? Sì, me l'aspettavo e tra l'altro proprio ai microfoni di questa trasmissione qualche giorno fa ho detto appunto che non ci sarebbe stata secondo me nessuna ricomposizione tra Tosi e Salvini perché diciamo il gap impostazione politica è molto profondo e quindi non ci sarebbe stata una riappacificazione, cosa che appunto è avvenuta. Sono due linee diverse di politica. Oggi, ad esempio, ho sentito Tosi criticare molto Salvini per quanto riguarda la sua posizione sull'euro, che lui condivide, quindi Tosi in persona, diciamo così, un versante della Lega che è più, diciamo, moderato rispetto all'impostazione di Salvini. Questo a sua volta rispecchia anche una crisi complessiva del centrodestra dal punto di vista politico, e comunque siamo arrivati, diciamo, a quello che era l'unico sbocco possibile, quindi una resa dei conti, insomma. Esatto. Vogliamo sentire, Guido, le parole. Sentiamo le parole di Tosi, che ha pronunciato oggi in conferenza stampa, rivolgendosi proprio a Salvini. Lo fa a ridosso delle elezioni regionali, quindi assumendosi la responsabilità di danneggiare il centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali, perché secondo me il ragionamento che ha fatto lui è un ragionamento altro, cioè un ragionamento del tipo: siccome mi devo liberare di Flavio Tosi, questo può essere un modo, e arrivo fino in fondo a prescindere dal Veneto, dalle elezioni regionali, dal rispetto delle regole interne e dal reciproco rispetto. Quindi Tosi dice, in sostanza, si è voluto liberare di me. Invece Salvini, che ha parlato a Radio Padania, noi l'abbiamo cercato ovviamente, ma si azzaia che Salvini poi hanno parlato nella loro radio, a Radio Padania. Salvini ha detto: di Tosi non parlo. Sentiamo. Senta, Tosi, ci può spiegare le ragioni alla fine? Buona giornata. Perché non vuole... Buona giornata. Di Repubblica. Quando parlo, parlo. Quando parlo, io parlo. Decido io se posso parlare. Adesso vado a mangiarmi un panino. Vabbè, questo era Salvini ancor prima di parlare invece da Radio Padania. E poi c'è Zaia, che invece, Guido, ha detto di non essere preoccupato da un'eventuale candidatura di Tosi, che non ha ancora sciolto la riserva, lo farà tra due giorni. Sentiamo anche lui. Adesso Tosi scende in campo preoccupato? No, guardi, i sondaggi ci danno assolutamente in vantaggio, però è anche vero una cosa, che il mio terreno migliore è quello con difficoltà, quindi corro per i campi e io sullo sterrato rendo meglio. Guido, secondo te quanto la Moretti si è giovata di tutta questa polemica? Ma l'altra candidata? Certo, sicuramente il PD e la Moretti, che è il candidato del PD, si è giovata, diciamo, di questa polemica all'interno della Lega. Ora, effettivamente ha ragione Zaia quando dice che i sondaggi dicono ancora che lui vince la partita. E questo è un dato di fatto, nel senso che lo dicono almeno i sondaggi, poi vedremo quello che sarà il risultato vero, diciamo, delle elezioni. Però certamente si è creato un problema all'interno della Lega, che poi credo che vada poi al di là del, eventualmente, se dovesse andare male per Zaia, che vedo che ovviamente va al di là dello scontro, diciamo, interno alla Lega, e aprirebbe un problema molto più grosso nel centrodestra, perché poi il Veneto, che fin qui è stato controllato da molti anni, è comunque governato dal centrodestra, passerebbe al PD, quindi sarebbe un problema gigantesco, diciamo, per il centrodestra nel suo insieme, oltre che per la Lega, ovviamente. Invece, Guido, rispetto ai giochi, cioè Tosi ha detto, appunto, non sa ancora se si candida o meno, ma secondo te questa alleanza con Alfano è percorribile, un'ipotesi, qualcuno dice passera, cioè secondo te nei giochi poi come andrà a finire? Ma ripeto, Tosi è in persona un versante della Lega più moderato, e quindi si avvicina con le sue tesi più a Alfano, e quindi credo che è anche allo stesso Passera, che comunque è molto interessato all'eventuale apparentamento, perché sappiamo che vuole riunire Passera, il suo progetto di riunire il centrodestra moderato. Credo però che termini, diciamo, brutali di voto siano percentuali basse, diciamo così. Un'alleanza di questo genere, secondo me, stante la situazione, quelli che sono, diciamo, i connotati politici della regione Veneto, io credo che effettivamente oggi i sondaggi fotografino bene, diciamo, la situazione, dove c'è uno Zaia in vantaggio. Ecco, è una Lega però che urla tanto, anche lo stesso Zaia non è un urlatore. No, certo, infatti, voglio dire, Zaia, e tra l'altro ha avuto esperienze anche di governo importanti, quindi non è un urlatore, è diverso da Salvini anche nei toni, però, diciamo, è più in persona, diciamo così, quella che è la posizione della Lega del Nord, che è una posizione, diciamo, più dura all'interno del quadro del centro-destra, quindi sotto questo profilo funziona molto di più, ecco, dal punto di vista per l'elettorato, il nocciolo duro dell'elettorato della Lega. Guido, io ti devo rubare ancora un po' qualche minuto per parlare del ritorno di Berlusconi. Insomma, oggi scene quasi da predellino, festeggiamenti all'interno di Palazzo Grazioli. Quindi si è parlato tanto di questa leadership del centrodestra e poi è tornato lui. Beh sì, insomma, oggi è comprensibile, diciamo, la felicità, la gioia dei rappresentanti di Forza Italia, oltre che ovviamente di Berlusconi. Ora, da qui a dire però che cambia nuovamente il quadro politico con Berlusconi che torna in campo e che quindi può assicurare la vittoria del centrodestra, ovviamente ne corre, insomma. Si capisce che oggi siamo, diciamo, una giornata particolare di soddisfazione per Berlusconi, certamente, che però rimane comunque un uomo che ha 79 anni e soprattutto c'è un problema gigantesco, come abbiamo visto, nel centrodestra, perché la Lega ne abbiamo parlato, ma anche in Forza Italia ci sono delle divisioni profonde. Ora è chiaro che in queste ore probabilmente le divisioni si attenua rispetto, diciamo, alla solidarietà e alla soddisfazione che c'è per la sentenza della Cassazione che riguarda Berlusconi, però i problemi politici permangono e quindi tra qualche giorno, magari quando non ci sarà più l'onda dell'emozione di questa della sentenza della Cassazione, si continuerà a ragionare in termini politici, dove ci sono delle difficoltà oggettive che riguardano il centrodestra e Forza Italia in particolare. Grazie per la tua analisi sempre puntuale all'editorialista del Sole 24 Ore Guido Gentili per essere stato con noi. Noi continuiamo a parlare di Berlusconi, torniamo però più sull'aspetto giudiziario e lo facciamo, la ringraziamo con la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, dicevamo con Guido Gentili il ritorno oggi di un Berlusconi ovviamente euforico alla luce della sentenza di ieri. Berlusconi però, che lo dicevamo anche nella puntata di ieri sera, qualche pendenza ancora ce l'ha. Non solo ha qualche pendenza, ma innanzitutto ha ancora gli strascichi della condanna Mediaset e questi da un punto di vista politico per lui pesano moltissimo, visto che non gli danno l'incandidabilità ancora fino al 2019, questo in base alla legge Severino che vieta, diciamo, la partecipazione politica attiva per 6 anni a chi abbia una condanna definitiva. Quindi la conferma dell'assoluzione di ieri dà uno slancio sicuramente politico a Berlusconi, ma ancora non gli dà la candidabilità. Questo è un aspetto. L'altro aspetto sono il resto delle pendenze giudiziarie che ancora l'ex premier ha, a cominciare dalla vicenda Rubiterro, ossia l'inchiesta ancora aperta qui a Milano sulla presunta corruzione dei testimoni e delle protagoniste, innanzitutto delle notti di Arcore. L'ipotesi è che l'ex cavaliere abbia comprato il loro silenzio con soldi, regali di ogni genere per far sì che sostenessero la linea della difesa davanti ai magistrati. Dopodiché invece c'è la vicenda delle escort di Tarantini a Bari, siamo in udienza preliminare e riprenderà ad aprile, e ancora c'è la storia della compravendita dei senatori a Napoli, quella della vicenda De Gregorio che gli ascoltatori ricorderanno. Questo sul fronte penale, mentre sul fronte civile sono strascichi ancora della vicenda Lodo Mondadori e poi vabbè c'è ancora la questione economica del suo divorzio con Veronica Lario. Però diciamo che la conferma dell'assoluzione di ieri ha sicuramente tolto a Silvio Berlusconi il principale incubo che aveva, che era quello che in caso di un ulteriore processo d'appello sulla vicenda Ruby, il processo più mediatico e anche più imbarazzante per l'ex premier, anche per l'eco, diciamo, vasta che ha avuto, no? Esatto, lei, il processo che tutta la stampa di tutto il mondo ha seguito, il bunga bunga, c'erano giornalisti da tutte le parti del mondo in Cassazione ieri, ecco, questa vicenda qui, se fosse tornata di nuovo in appello a Milano, il timore del ex premier è che lui potesse arrivare ad un'eventuale condanna, a quel punto sarebbe stata la seconda, che avrebbe significato per lui anche perdere quei benefici dell'indulto che ha avuto invece per Mediaset. A quel punto la storia diventava estremamente complessa, perché perdendo i benefici dell'indulto, un'eventuale altra condanna poteva anche addirittura arrivare a rischiare gli arresti domiciliari, ma questo ormai sono scenari che il verdetto di ieri della Cassazione ha del tutto fugato, quindi anche per questo diciamo l'euforia politica di Silvio Berlusconi è per una assoluzione, esatto, è su una soluzione importante, ma che ancor di più allontana uno scenario e una preoccupazione e dal suo punto di vista un incubo che era altrettanto grande. Pesante. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, ci fermiamo ancora un po', poi torniamo ad approfondire altre notizie di oggi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21:34 minuti, le notizie principali di oggi, a partire dalla politica, con la Lega che si è spaccata. Tosi in conferenza stampa accusa Salvini di essere un dittatore, parla anche Zaia, candidato della Lega in Veneto. Sicuro che vinceremo, non ci tremano i polsi. Tosi però non ha ancora sciolto la riserva, non ha ancora detto se si candiderà anche lui contro Zaia o meno. E poi oggi è stato il giorno del ritorno di Berlusconi in campo. Uniti vinciamo, queste le parole di un Berlusconi trionfante dopo la conferma della soluzione ieri in Cassazione. L'economia, ha parlato Draghi, quantitative easing funziona bene, euro intanto verso la parità con il dollaro. E poi c'è il tema dei minori, saltano le adozioni ai singoli, è stato ritirato l'emendamento che era stato presentato dalla senatrice PD Puglisi. E noi proprio su questo vogliamo accendere un focus, perché lo avete sentito ad inizio di trasmissione, l'Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge sulle adozioni praticamente all'unanimità, oggi con 197 sì, il testo passa adesso alla Camera, però saltano le adozioni ai single. L'emendamento era stato presentato dalla senatrice del PD Francesca Puglisi, che è la relatrice del DDL adozioni. Allora io, prima di presentarvi i nostri due ospiti, voglio farvi sentire le parole che la Puglisi ha pronunciato oggi a Radio 24, ospite di Maria Piera Ceci ad Effetto Giorno. L'obiettivo dell'emendamento era parificare i diritti dei bambini che vanno in affido familiare ad un singolo a quelli dei bambini che vanno in affido familiare ad una famiglia regolarmente sposata. Oggi sarà, affermando il principio della tutela delle relazioni positive che si sono sviluppate nell'ambito della famiglia, la responsabilità, come sempre, del giudice dei servizi di tutelare questi diritti. Quindi per questo ho ritirato quell'emendamento, perché ho capito in aula che purtroppo aleggiava sull'aula lo spettro di un altro provvedimento che non ha assolutamente a che fare con questo e che riguarda le unioni civili e la stepchild adoption per le coppie omosessuali. E siamo sempre alle polemiche in questo paese, direi, aggiungerei sempre sullo stesso tema. Io ringrazio e saluto gli ospiti di questa sera che sono con noi, il presidente di AIBI, Amici dei Bambini, Marco Griffini, buonasera. Buonasera a tutti. E il presidente di Equality Italia, Aurelio Mancuso, buonasera. Buonasera a tutti e a tutte. Innanzitutto io voglio chiedervi un parere sulle parole che abbiamo sentito della Puglisi, che ha ritirato l'emendamento perché ha detto: ho capito che si andava da un'altra parte. Che parla? Parla prima Griffini. Parlo io. Ma in effetti sì, ha fatto bene a ritirare l'emendamento, perché sinceramente questo emendamento non c'entrava niente. Cioè, qui si è stata un po' travisata questa proposta di legge. Questa era una proposta di legge unicamente per normare certe situazioni di prolungamento di affidi. Cioè, quando gli affidi sono prolungati, se la famiglia è consenziente, possono passare in adozione. Mentre si è voluto un pochettino tirare la coperta da certi lati per arrivare su campi che non erano previsti in questo disegno di legge. Se si vuole discutere sull'adozione singole, sull'adozione alle coppie di fatto, sull'adozione agli omosessuali, si apra un dibattito e si discute, ma non bisogna far passare per la finestra ciò che non si vuole far entrare per la porta. Griffini, ora, io poi tra poco le faccio una domanda, però, perché Mancuso su questo non mi sembra essere d'accordo, perché ha parlato invece di decisione contro i diritti dei bambini. Perché Mancuso? Sì, perché non c'entrano niente le coppie di fatto, a parità di condizioni, cioè questi bambini sono bambini che a un certo punto entrano nel gioco dell'adozione perché si ritiene appunto che dopo i 3 anni, e poi perché le famiglie non possono di prendere a sé, possano intervenire nella richiesta di adozione le famiglie affidatarie. Allora è curioso che fino adesso anche i single appunto possono essere affidatari in alcune condizioni, ma che non possono entrare nel gioco delle adozioni. Allora, o non sono non è assolutamente vero. Mi scusi, io non l'ho interrotta. Poi Griffini tra poco ci spiega la sua posizione che mi sembra difforme. O questi sono buoni genitori affidatari e quindi sono buoni punti di riferimento adulti per questi bambini, o non lo sono. Quindi allora a questo punto sarebbe bene o togliere completamente la possibilità dell'affido anche per i single, o invece di estendere a questi genitori, a queste figure che svolgono questo ruolo genitoriale, anche quando si decide che il bambino può andare in adozione. Questa, Griffini, diciamo, è una mi perdoni, interrompo io Mancuso, perché Mancuso mi sembra che abbia posto un tema reale, Griffini, cioè... Non è vero, perché tutti sanno benissimo che oggi, con la 184, articolo 44, lettera D, il single che ha in affido un bambino per casi particolari, cioè quando si è creata una relazione particolare fra il single che ha il bambino in affido e il bambino, può essere decretata l'adozione. Mi sembra che questo emendamento invece voleva... Questo emendamento voleva estendere, tout court, voleva eliminare l'articolo 6, dove si dice che l'affido può essere... l'adozione può essere disposta anche a coppie di fatto, senza creare, se a singolo o del genere. Quindi oggi il problema è che se un single ha in affido un bambino e questa situazione d'affido si prolunga nel tempo e non può ritornare questo bambino nella famiglia di origine, il single, a giudizio del giudice, invocando l'articolo 44 lettera D, può legittimamente adottare e si sono verificate adozioni. Qui si voleva invece, ripeto, aprire un discorso su una cosa che non c'entra niente con l'affido. Quindi anche lei, come la Puglisi, intravedeva invece si andava da un'altra parte con questo emendamento. Si voleva andare da un'altra parte, assolutamente sì, legittimamente andiamo da un'altra parte, però discutiamone. Allora apriamo il capitolo delle adozioni ai single, delle adozioni agli omosessuali e delle adozioni alle coppie di fatto, ma e discutiamone su questo. Ma lei su questo non è d'accordo, Mancuso? Cioè che alla fine, se si deve parlare di un tema, forse è meglio parlarne apertamente? No, guardi, il tema vero in Italia è che sulla sofferenza dei bambini e sulla sofferenza e sui diritti negati delle persone si creano sempre ostacoli di specialità, a differenza della normativa del quadro europeo, dove tutti gli attori che sono considerati persone che possono, nella loro condizione economica e psicologica e sociale, essere genitori affidatari o adottanti, queste figure sono tutte poste alla pari, ma la legislazione italiana, e lo vediamo bene per come non funziona la legge sulle adozioni in questo paese, la legge italiana pone ostacoli perché c'è un veto di tipo politico e culturale. È inutile girarci intorno, c'è nella preponderanza delle famiglie, tra l'altro organizzate, sia quella affidataria sia quella degli adottanti, una preponderanza di associazioni cattoliche e clericali, e quindi passa una certa idea. Dopodiché, lei cosa ne pensa, Griffini? È vera questa cosa? Allora, se parliamo dalla parte dei bambini, parliamo dalla parte dei bambini. Allora entriamo nel merito dell'affido. Allora, l'affido come oggi è applicato purtroppo non va bene, perché l'affido deve essere molto chiaro, la legge è chiara, deve durare 2 anni, al massimo altri 2 anni. Perché si creano queste situazioni per le quali stiamo qua a parlare? Perché non viene applicata la legge dalla parte dei bambini. Dopo 2 anni il bambino in affido o ritorna nella famiglia d'origine o viene dato in adozione. Se fosse così, noi non saremmo qua a discutere di queste situazioni. Sì, però Griffini, posso farle una domanda io? Cioè, se io sono single e prendo in affido questo bimbo e poi faccio la richiesta, lei mi ha detto sì che c'è la normativa che mi consente. Il giudice invocando. Ma forse è una cosa farraginosa, forse l'emendamento della Puglisi voleva renderla un po' più semplice. Ci sono i dati che parlano. Mancuso, sa quante sono oggi in Italia le adozioni fatte invocando l'articolo 44 lettera D? se non lo sa, glielo dico io, sono 560 all'anno, rispetto a 1100 adozioni che vengono adottate. Quindi sono tantissime. Sono tante, sono okay, questo ci tranquillizza, bisogna soprattutto per i bambini. Certo. Bisogna capire cosa sono queste adozioni e casi speciali. Allora, domani voi intervistate il Dipartimento Giustizia Minorile e vi fate dire di queste centinaia di adozioni di casi speciali quante riguardano i single. Guardi, il tema, allora lo voglio dire ancora con più forza, la legislazione italiana è talmente ostativa rispetto alle persone singole, alle coppie di fatto, non parliamo delle coppie omosessuali che apriamo un altro fronte, che quei numeri che ha dato il mio interlocutore potrebbero essere moltissimi di più, ma siccome i single e queste condizioni che non sono quelle ritenute, diciamo, culturalmente accoglibili, sono, fanno un calvario dentro queste norme, per cui o tu hai diciamo una certa capacità di poterti identificare, o se no anche all'interno del quadro dell'assistenza delle associazioni e di tutti quelli che se ne occupano, tu hai sempre molti una problemi. Difficoltà. Allora, Griffini, allora il tema io... è, bisogna sì. che tutti i cittadini e le cittadine siano uguali davanti alla legge quando gli si riconoscono delle capacità e dei diritti a cui possono accedere. Punto. Tutto il resto è solo visione ideologica. Griffini, ma su questo fatto che in Italia ci sono delle lacune, lei è d'accordo? No, siamo d'accordissimo. Il problema oggi è che c'è una cultura negativa nei confronti dell'adozione nazionale e internazionale. Cioè, allora prima applichiamo la legge. Per esempio, in Italia non c'è ancora una banca dati dei minori dichiarati adottabili. Sappiamo per certezza che 1900 bambini dichiarati adottabili non vengono adottati. Allora esaminiamo prima il perché c'è questa cultura negativa. Ci sono 5.300.000 coppie oggi in Italia sposate che non hanno figli e che potrebbero adottare, sono numeri spaventosi. Apriamo allora un discorso su perché non funziona l'adozione nazionale, su perché non funziona l'adozione internazionale. Infatti, su questo, certo, su questo certo, che è un punto di intesa. Noi sono certo. anni che stiamo lottando. Certo. Se certo. vogliamo, ripeto, certo. aprire un discorso non di carattere ideologico, ma del perché. Io come bambino abbandonato preferisco in una famiglia regolarmente sposata. Vabbè, qui poi entriamo diciamo nell'altra polemica. Io ringrazio, perdonatemi, io vi devo ringraziare su questo punto in comune che abbiamo trovato e sul quale siamo tutti purtroppo d'accordo, sul numero di adozioni che si riduce per la farraginosità e la difficoltà. Io vi ringrazio, ringrazio entrambi, Griffini e Mancuso, ci aggiorniamo sulla viabilità e poi torniamo ancora con Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le 21.47 minuti, le notizie di oggi. In primo piano la politica, bagno di folla per Berlusconi oggi davanti a Palazzo Grazioli dopo la soluzione definitiva sul caso Ruby. Intanto la Lega si spacca, parla Tosi, un mio rientro improbabile. Salvini voleva il controllo dittatoriale del partito. L'economia, ha parlato Draghi, e le borse hanno chiuse tutte in segno positivo. Segni di inversione, ha detto Draghi, dopo la frenata del PIL. Dall'estero l'ISIS che arretra, le truppe irachene entrano a Tikrit, battaglia finale per la città simbolo. E poi minori, il tema che abbiamo affrontato proprio poco fa, saltano le adozioni ai singoli, ha litigato l'emendamento della senatrice PD Puglisi. Europa 24 notte. Andiamo in Europa adesso, rendere visibili i milioni di profughi del mondo, dargli un nome, un volto, raccontare le loro storie. Questo è il senso della campagna You Save Lives, lanciata dall'Unione Europea insieme ad Oxfam. Per l'occasione è stato anche fatto il punto sul fenomeno attraverso il rapporto I Paesi degli Invisibili. Sono oltre 51 milioni i profughi, gli invisibili appunto del mondo, costretti a fuggire dalle proprie case. Una nazione sterminata, la 26esima al mondo per popolazione. Riccardo Sansone è il responsabile emergenze umanitarie di Oxfam. Lo ha intervistato Alessandra Schepisi. Noi abbiamo deciso di lanciare questa campagna insieme all'Unione Europea per cercare di rendere visibili queste persone attraverso anche le storie di queste persone, e lo facciamo partendo da tre crisi principali che ci sono al momento nel mondo, che sono quelle che purtroppo contribuiscono appunto al superamento di questi 51 milioni di profughi. La crisi siriana, che è una crisi regionale ormai. Purtroppo il prossimo 15 marzo si celebrerà il quarto anniversario dello scoppio, è una crisi regionale che sta impattando non solo dentro la Siria ma anche nei paesi limitrofi, Libano, Giordania e Turchia, che vede al momento appunto più della metà della popolazione siriana colpita, si parla di 11 milioni di profughi o sfollati interni, una grossa percentuale anche che appunto viene ospitata negli stati limitrofi. Le altre due crisi sono quella in Sud Sudan e in Repubblica Centrafricana, anche qui sono crisi dove i numeri sono impressionanti, ci sono 2 milioni di sfollati di profughi in Sud Sudan e quasi 1.860.000 in Repubblica Centrafricana. Numeri naturalmente che con la situazione in Libia sono destinati ad aumentare esponenzialmente. Questo è un altro elemento ovviamente che va preso in considerazione. Il dato dei 51 milioni purtroppo è un dato del 2013. Cioè insomma è un dato che è destinato a ingrossarsi. Assolutamente sì, e con l'estendersi appunto di questi conflitti anche che stanno raggiungendo più paesi nel Mediterraneo, il numero di profughi aumenterà e ovviamente aumenterà anche il numero di persone che cercherà di scappare e di raggiungere delle terre più sicure. Per cui sicuramente questo è un elemento che va preso in considerazione. Questa campagna... Ecco, in cosa consiste questa campagna? Cioè in che modo volete rendere visibili queste persone? Vogliamo renderle visibili raccontando quelle che sono le loro storie, poi le storie anche della sofferenza umana, della difficoltà di chi scappa e si deve lasciare tutto dietro. Lo facciamo attraverso diverse modalità, abbiamo una piattaforma web, avremo un documentario che verrà presto messo anche questo online. Sono diverse attività di comunicazione che vengono fatte sia sui media classici ma anche attraverso i social network, rendere visibili per far sapere che esistono queste storie, ma anche per far sapere che Oxfam insieme all'Unione Europea stiamo cercando di salvare queste vite e di far sperare in un futuro migliore a questi profughi. È importante penso anche che i cittadini europei lo sappiano, perché se guardiamo i dati degli aiuti umanitari forniti nel mondo, l'Unione Europea attraverso i contributi dei cittadini europei che pagano le tasse in Europa è il più grande donatore di programmi di aiuti umanitari, cioè è il soggetto che garantisce il più grande numero di programmi di assistenza umanitaria. Quindi questo penso sia anche importante che i cittadini europei lo sappiano, perché loro stessi stanno contribuendo attraverso le loro tasse a cercare di salvare le vite. La campagna si chiama appunto You Save Lives, facendo gioco su questo in inglese, sul fatto che EU sta per European Union, ma può anche voler dire you, cioè tu salvi le vite. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Dopo l'appuntamento con l'Europa, un focus sull'ISIS, sulle tensioni sempre grandi, sulle provocazioni dell'ISIS, in una giornata che era stata aperta dall'incontro questa mattina del nostro Premier con Leon. Si era parlato di Libia, della situazione in Libia. Io saluto e ringrazio il nostro ospite Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto. Buonasera a voi. Alberto, allora un'altra giornata pesante in termini di provocazioni da parte dell'ISIS, che si è macchiata di un altro delitto contro il patrimonio culturale, e poi si è saputo che l'ultimo orribile video, quello del bimbo, riguardava probabilmente un bambino di nazionalità francese. Continuano le provocazioni, Alberto? Ma sai, più che di provocazioni io parlerei in realtà di un sistema ideologico, per quanto deviato e deviante. Queste non sono provocazioni, ma sono parte di un'ideologia che è quella del califfato, e che non è poi così nuova né così diversa da altre che abbiamo visto nel passato. E forse la strategia di comunicazione dello stesso ISIL, che in qualche modo le amplifica e le fa elevare a sistema. Ma Qui qualcuno si è dimenticato forse anche di quanto accadde qualche anno fa, nel 2001, quando i talebani in Afghanistan distrussero i famosi Buddha di Bamiyan, e forse qualcuno anche si è dimenticato che era il capo dei talebani di allora e di oggi, che è il Mullah Omar. Che fine abbia fatto nessuno ce lo sa dire ancora. E quindi mi sembra che in realtà l'ISIL abbia, come dire, raccolto quelli che erano alcuni aspetti dei movimenti radicali islamici, dei talebani, di Al-Qaeda, e li abbiano sistematizzati, elevandoli, come dire, a sistema più che a provocazione, un sistema magari perverso che fa distruggere per esempio alcuni dei siti archeologici più importanti della Mesopotamia, magari li riduce a poltiglia per poi farne oggetto di commercio, per esportarli, per guadagnarci sopra, e come poi devia anche la vita, la personalità persino dei fanciulli, e li riduce a dei killer. Ma insomma, siamo di fronte a un fenomeno che poi noi non dobbiamo affrontare solo davanti a questo tipo di bisogni, ma che dobbiamo affrontare in una maniera molto differente, che poi è quella politica, certo. Cioè come trovare delle alternative all'ISIL che siano un po' differenti da quelle che vediamo adesso, perché l'ISIL, Alberto, poi è frutto di una distruzione del Medio Oriente che è cominciata anni fa. Alberto, però sono arrivate anche notizie, diciamo, tra virgolette buone, cioè l'ISIS che arretra in Iraq e le truppe irachene che starebbero riconquistando Tikrit. Tu conosci bene quel territorio, pare che Tikrit sia fondamentale poi per riprendere anche Mosul, quindi sono notizie timidamente positive, possiamo dire? Beh, Tikrit si trova a 100 km a nord di Baghdad, sulla direttrice che da una parte porta Mosul e dall'altra Kirkuk. È una città chiave, la città natale tra l'altro di Saddam Hussein, è una città sunnita. Chi è che sta però combattendo oggi contro l'ISIL? Ma la coalizione internazionale a guida americana fa dei bombardamenti, però sul terreno sono le milizie sciite filo iraniane che stanno riconquistando la città. Quindi questo, insomma, dobbiamo ancora forse aspettare un po'. Quello che sappiamo è che già ci hanno detto che aspetteremo, perché gli americani avevano parlato di un'offensiva a Mosul ad aprile e forse adesso la rinviano di qualche altro mese. E bisogna farsi anche una domanda: ma lo stiamo combattendo davvero questo califfato oppure no? Grazie Alberto, grazie al nostro Alberto Negri. Con questa domanda si conclude anche la puntata di stasera di Effetto Notte. Noi ci risentiamo domani, per il momento è tutto.